Ecco, noi l'autore e regista Renato Sarti per parlare dello spettacolo Mai Morti con Bebo Storti in scena venerdì 4 e sabato 5 maggio a Roma, al Teatro di Villa Torlonia. Renato, ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora, per chi è all'ascolto e non lo conoscesse, lo descrivi un po'? Beh, è un testo che nasce nel 2000 a Milano. C'era stata una manifestazione, la rassegna si chiamava La Maratona di Milano, organizzata da Antonio Calvi e Oliviero Ponte di Pino. E lì presentavamo per 20 minuti l'inizio di questo testo che voleva parlare del fascismo e dell'importanza di ribadire i valori dell'antifascismo. E fu una fiammata, fu un'autentica fiammata, al punto che poi Ezio De Capitani, il Teatro dell'Elfo, lo produsse nel 2002-2001. E fra le altre cose che sono accadute dopo, nel 2002, 22 aprile, noi siamo stati al vascello e lì arrivarono 30 ragazzi baldi giovani armati di mazze e caschi, capitanati dalla Salta Martini Barbara, deputata alla Camera, che non si è mai scusata per questo, e cercarono di interrompere lo spettacolo del Teatro Vascello, cosa che non gli riuscì nell'impresa. Tra l'altro, Renato, fu lì che noi ci conoscemmo, ci fu il collegamento in diretta su Radio Onda Rossa e da lì poi è cominciato tutto. Grande liaison. E dopo lo spettacolo ho avuto altri, diciamo così, momenti turbolenti come Genova, eccetera. Per un periodo Bebo portava la polizia in teatro. Diciamo che è un testo che parla praticamente dall'interno di quello che è un nostalgico della decima massa, della Ettore Muti, cioè delle peggiori formazioni fasciste, e che siccome negli anni 2000 non può più fare attentati, menare le mani, sparare, una notte milanese rimembra gli episodi di cari sacchi lontani e incomincia questa rievocazione in pigiama e vestaglia e finisce vestito da decima massa completamente con il basco, con una serie di motti fascisti e l'ultimo è un sigai tuonante. E ci dovrebbe far pensare su cosa è stato il fascismo e cosa ancora purtroppo esiste all'interno del nostro paese di quella dittatura. Tra l'altro, Renato, nel corso degli anni ogni tanto aggiungete delle attualizzazioni. Beh sì, tutte queste cose qui, per esempio dei sindaci che a Gorizia accolgono la decima massa e la fanno cantare l'inno all'interno del comune, la Spezia idem, al Dalghero che hanno fatto una lapide che io inorridisco ogni volta che lo racconto, la gente non ci crede, in cui è scolpito sul marmo, è praticamente un ricordo dei partigiani che lottarono per la libertà al pari dei repubblichini, cioè tu vedi i nomi dei repubblichini che lottarono per la libertà e la giustizia. Il sindaco di altre città, diciamo così, ogni tanto, no, ogni tanto, spesso riaggiorniamo il testo con quelle che sono le nefandezze, tipo per esempio che hanno spaccato il monumento dedicato ai deportati dell'area di Sesto, cioè delle grandi fabbriche dopo i scioperi del 43-44 al Parco Nord di Milano. Il testo, diciamo così, c'è a un certo punto Bebo, che in persona magnificamente questo reduce, va in mezzo al pubblico e dice che lui fa parte di un gruppo di comitato dell'ordine e fa queste cose qui, Sì, insomma, ecco. sì, sì. E noi aggiorniamo un pochino. Senti Renato, come avevate pensato inizialmente la messa in scena con Bebo? No, in realtà questo è un testo che nasceva su Pinelli, volevo Ah, fare un testo su ok. Pinelli, poi però Calvi mi chiese se avevo pronto qualcosa per questa rassegna e lì improvvisamente capì che era più giusto parlare un po', anche perché in quel momento lì a Milano sfilavano tranquillamente per Corso Buenos Aires Bossi, Fini e Berlusconi e io che andavo a vedere, seguivo questa manifestazione. Vivevo con un incubo, il ritorno al fascismo, perché il clima era assolutamente forcaiolo, ma totalmente forcaiolo, cioè uno non può immaginarselo, cioè morte ai negri, contro i zingari, contro i drogati, cioè un clima che mi metteva inquietudine, quindi decisi di dedicare un testo che parlava delle nefandezze di cui si sono macchiati i fascisti, che ogni tanto, sai, perché qualcuno ogni tanto dice da Vespa o qualche altra, ma sì, Mussolini in fin dei conti è un bravo uomo di famiglia e non ha ammazzato nessuno. E ahimè, però non, forse non vogliono ricordare le nefandezze schifezze, le torture che furono praticate, noi citiamo quelle del Castello di Conegliano Veneto, Castello delle Urla Strazianti, o quelle dove adesso ha la sede il Piccolo Teatro di Milano, che prima era Cinema Broletto, che mentre proiettavano i film, sopra gli ultimi piani, nei camerini, si torturavano i deportati. E non, ed era un'autentica galleria dell'horror, un'autentica galleria dell'horror, Sì, un'autentica galleria sì, sì, sì. dell'horror. E via avanti così. Renato, una produzione teatro della cooperativa. Raccontiamo brevemente anche questa esperienza. Beh, devo ringraziare innanzitutto il Teatro dell'Elfo, che su alcuni spettacoli, tipo quello della Risiera, tipo questo, se non ci fossero stati loro, Elio Capitani, Ferdinando Bruni, Grassi, eccetera, eccetera, questi spettacoli avrebbero avuto una nascitura, diciamo così, molto più tripolata. Ma I Morti fu prodotto dall'Elfo e devo ringraziarli. Poi, dopo 2 o 3 anni, passarono a me lo spettacolo, lo distribuiamo noi, e forse uno dei spettacoli più longevi che esistano in Italia. Insomma, ce ne sono tanti altri, per carità, però è dal 2000 che continua ad andare in giro. Adesso siamo a Roma, il prossimo anno saremo in un importante teatro milanese, che non devo svelare dove, ma insomma forse qualcuno l'ha già capito. Ce lo stanno chiedendo molto, perché purtroppo, ahimè, il clima in questo nostro paese è tutt'altro che rassicurante, e il teatro della cooperativa è sempre stato comunque. Ma non solo il teatro della cooperativa, in generale, rispetto a quello che sta succedendo in questo paese, dal punto di vista di certi valori, il teatro, diciamo così, che è un luogo quasi preferenziale, cioè si è fatto d'argine, no? Rispetto a certe tendenze, certe pericolose derive razziste, xenofobe, fasciste e via di questo passo. Il teatro, quello che è chiamato il teatro civile, che va da Paolini, ma lo fanno anche al Piccolo, lo fanno anche all'Elfo, lo fanno a Franco Parenti, lo fanno anche a Roma in molti teatri, cioè il teatro non è stato, credo, secondo a nessuno dal punto di vista di opporre una resistenza a queste nuove, diciamo così, derive pericolosissime. E oggi, ahimè, noi abbiamo la Lega che fa il suo rappresentante e si propone come Presidente del Consiglio, ma la Lega è stata infiltrata, è nata da Casa Pound, da nazisti, da neonazisti, da lo so che rischio crudele, però è così, la storia è questa. E quelli che hanno mollato le formazioni neonaziste sono confluiti alla Lega Nord, e questo non può farci dormire sonni tranquilli, ecco, quindi bisogna sempre stare allerta, perché questo purtroppo è un paese che non ha ancora del tutto fatto i conti con il suo passato e ogni tanto invece c'ha dei rigurgiti. E noi il Teatro Cooperativa siamo lì, un piccolo bastione nella periferia milanese. Allora, ricordiamo questo nuovo appuntamento con Mai Morti il 4 e 5 maggio a Roma al Teatro di Villa Torlonia. Mai Morti, testo e regia Renato Sarti con Bebo Storti in scena. Renato, è sempre un piacere, ci sentiamo per le prossime novità. Un abbraccio. Un abbraccione anche a voi e a tutti, grazie, ciao.